E benvenuti a Phase Zero. Ciao a tutte e tutti. In differita a Radio Forte dal Forte Prenestino. Ettore Andrea ai controlli. Ettore Andrea ai controlli per questo episode 2 di Phase Zero. Trasmissione dedicata ai meters. Con un po' di deviazioni qua e là, ma sostanzialmente tutta monografica su di loro. E come ti è venuta, Andrea, questa idea di fare proprio una trasmissione sui meters? Ma in questi tempi di pandemia sentivo dire un metro e mezzo, due metri di distanza, tutte ste cose. Allora ho detto, perché no? I meters. Certo. I metri. Allora, dei metri stiamo ascoltando dal loro secondo album, la title track, che si chiama, l'album e quindi la track, Luca Pai Pai. Luca Pai Pai. E questa seconda traccia che stiamo ascoltando è Sissy Strat, dall'album The Meters, sempre del 1969. E introduciamo un po' di storia dei Meters. I Meters si fondano a New Orleans nel 1965 e sono Zigaboo Modelist alla batteria, George Porter Jr. al basso, Leno Centelli alla chitarra e Art Neville alle tastiere e voce, è il frontman, diciamo. E Art Neville inizia la sua carriera in solo verso la metà degli anni 50, sempre nell'area attorno a New Orleans, e riscuote un primo successo quando ancora è a scuola, una scuola secondaria superiore. Il successo si chiama Mardi Gras Mambo, che è una traccia che poi registrerà anche con i Meters. Nel Nel 67 Alain Toussaint, nome di spicco della musica di New Orleans, il personaggio più importante degli anni 60 e 70, insieme al suo socio Marshall Sehorn, fonda un'etichetta Sansu e va a vedere, insieme appunto al suo socio, un gruppo che si chiama Arneville and the Neville Sound. Sehorn, dopo aver sentito il concerto, gli fa subito firmare il contratto e dopo un poco Art Neville and the Neville Sound diventeranno i Meters. I Meters, oltre a registrare i propri album, diventano la band di riferimento dell'etichetta e registreranno con altri grandi di New Orleans come Irma Thomas, Betty Harris e Lee Dorsey, del quale andiamo a sentire un singolo del 1969, etichetta Emmy Bell, il cui titolo è Everything I Do Gonna Be Funky. Everything I do gonna be funky from now on. Yeah. Everything I do gonna be funky from now on. I just to be myself and do my thing. A little soul can't do no harm. Yeah. Everything I do gonna be funky from now on. Yeah. Yeah. Everything I do. Yeah, from now on. Yeah, everything I do gon' be funky. Yeah, from now on. Yeah. Some may say I got no class, but I'm doing what I wanna do. So groove with me if you can, or just do what you can do. Shut. Why? I'm on fire. Yeah. Everything I do gonna be funky from now on. Yeah. Everything I do gonna be funky from now on. Never before have I felt so good, just being natural me. Minor hang up and minor ties, but deep inside I'm free. So let your hair down and get down with it. Who's to say what's right or wrong? Everything I do gonna be funky from now on. Yeah, everything I do gonna be funky. Yeah, from now on. Yeah, everything I do gonna be funky from now on. Yeah, everything I do gonna be funky from now on. Everything I do gonna be funky from now on. A little softer. E allora dopo Little C and Everything Do Is Going To Be Funky From Now On, stiamo ascoltando del 1970, quindi un anno più tardi, Hand Clapping Song da Strutting, il terzo LP dei Meters. Sempre dallo stesso LP Strutting del 1970 per i Meters, il brano che ascoltiamo successivamente è un brano abbastanza breve che si intitola Tippy Toes, del quale di seguito ascolteremo una cover fatta da una band abbastanza atipica anche per il contesto, che vi sfidiamo a indovinare di quale band si tratta. Tippy Toes. lover, there will be another one who'll hover over you beneath the sun. Tomorrow, see the things that never come. Today, yeah. When you see me fly away. E qui sperimentazioni sonore a mani basse. Avete sentito anche dei mashupini casuali così fatti, ma qui è una factory di innovazioni. Allora, abbiamo ascoltato due versioni di Tippy Toes dall'album Strattin, la prima del 1970, mentre invece del 1992 la seconda versione è praticamente quasi identica. Ed era una versione, una cover version dai Primus, da un bellissimo mini CD, mini album, diciamo, sul CD, che per quello che mi risulta è uscito solo in CD nel 1992, che si chiamava Miscellaneous Debris, nel quale i nostri fanno 5 cover completamente scollegate una dall'altra, da Peter Gabriel, gli XTC, i Residence e addirittura i Pink Floyd di Eva Cigar. Il titolo Miscellaneous Debris non è casuale, vuol dire qualcosa tipo un mix di detriti, di risulta, di morchia, insomma di smorzo, quindi roba accocchiata così casualmente. Dall'album Cabbage Alley del 1972 e stiamo ascoltando questa canzone perché è un pezzo di Neil Young ed è l'anno in cui i Meters firmano per la Reprise, e Neil Young era uno degli artisti di punta della Reprise. Probabilmente è un omaggio, diciamo, un augurio ed un omaggio per questo nuovo contratto con una major che sarebbe la Warner. Reprise ovviamente è Warner Bros. It's over. Yeah, just lost the groove, a bad lady. grave. The proof I win is not the same. I'll pick up, rack up, put your whole shack up. Just choose to lose the bet. MC's stick up the scissor is, but the mic's not his, it's mine. One time, let the star shine. I'm telling you, yelling at you, you're through. Don't think you're grown, cause you must get through. I'm number one, you know what wins are done. And I'll be the burger, you could be the bun, girl. Surrounding my steady pounding, get on down to my funky sounding. You know that the D is on the block. Four times, y'all, and never ever the whack. It's the hour to the minute, time to blow black. Time Bomb, Public Enemy, dall'album Yo Bum Rush The Show del 1987. Perché? Perché abbiamo mandato questo pezzo dei Public Enemy in una trasmissione dedicata ai Meters? A ben vedere è abbastanza semplice la risposta. Il campione che sta alla base di questo brano, che come avete sentito è molto essenziale, molto asciutto, minimale quasi, rispetto a già a partire dal secondo dei Public Enemy, dove addirittura Rick Rubin della Def Jam sosteneva che si era arrivato addirittura a registrare brani con 136 sovraincisioni su una stessa pista. Questo primo album dei Public Enemy, poco bazzicato purtroppo, invece è ancora un album di un hip hop secco, asciutto. E questo campione di questo brano dei Meters, che tra poco vi dico qual è stato utilizzato ampiamente nell'hip hop. Un altro esempio che posso fare di circa una decina d'anni dopo è dell'EPMD, del brano Never Seen Before, titolo piuttosto paradossale se lo rapportiamo alla musica, dal momento che non solo era già stato usato come campione, ma addirittura questo campione viene da un brano appunto che adesso ascolteremo, questa volta dall'album bellissimo del 1974 Rejuvenation. Il brano si intitola Just Kiss My Baby. I feel like a king, yeah, 'cause I just kissed my baby. Money don't mean a thing to me, no, 'cause I just kissed my baby. Feels so good, ha, 'cause I just kissed my baby. Yeah. Yeah. Phase Zero, quasi più o meno in zona termine. E allora, il pezzo di prima chiaramente non va neanche annunciato e menzionato, direi che insomma piuttosto conosciuto. Forse il fatto poco conosciuto invece è che in questo brano, e qui si spiega perché lo abbiamo selezionato, perché qui nulla a caso, su questo brano delle La Belle suonavano come backing band proprio i Meters. Il brano è del 74, è un singolo del 74, quindi dello stesso periodo di Fire on the Bayou, e quindi ci sta in tutti i modi. E se avete ascoltato bene il testo, lei lo dice proprio all'inizio: Down in New Orleans. Le La Belle sono Patti La Belle, chiaramente, e il suo gruppo con backing vocalist, questo ci tengo a dirlo, due nomi non da poco: la Sarah Dash, che stava anche nel gruppo precedente, cioè Patti La Belle and the Blue Bells, e pensate un po' anche Nona Hendrix. E dopo di ciò, e quello che stiamo ascoltando adesso è Middle of the Road, e dall'album sempre Fire on the Bayou, e ed è un pezzo molto bello a nostro avviso, l'abbiamo voluto mettere, un pezzo lungo ma molto bello e molto d'atmosfera, e che dimostra la capacità che avevano questi musicisti di non solo di suonare il funk ma di suonare qualsiasi cosa, e infatti erano la band di riferimento per molti molti musicisti. Questa era Middle of the Road, e il prossimo pezzo è Fire on the Bayou dall'omonimo album. Yourself, I'll rewind. Cool, cool, wine, y'all. E siamo quasi al termine di Phase Zero. Questa che stiamo ascoltando è una cover che i Meters fanno di una figura abbastanza importante, sempre parliamo di New Orleans, quindi della musica di New Orleans, con quasi un pilastro, insomma, Professor Longhair. Il brano si intitola Big Chief. E perché mettiamo questo brano? Perché appunto questa dedica a questa persona è abbastanza importante, è un riconoscimento da parte dei Meters verso appunto anche un po' l'origine, anche in una dimensione temporale pre-funk, quindi parte direttamente dal suono primario di New Orleans prima di approdare al soul. Questa compilation si chiama Kickback, sempre del 1975, è una insomma non troppo apprezzabile compilazione, anche di un po' di scarti, ci sono vari outtakes fra cui questa e anche delle cover a volte un po' imbarazzante, come ad esempio quella di Come Together dei Beatles, e ritorna anche fra le altre, lo diciamo così perché ne abbiamo parlato prima, anche una cover ancora di Neil Young, Down by the River. A proposito di questo brano, vogliamo segnalarvi, se avete tempo e voglia, c'è un video su YouTube di un concerto in cui eseguono questo brano non solo i Meters, ma insieme a Dr. John, Earl King, che canta il tema, e oltretutto lo stesso Professor Longhair, di cui adesso ci è venuta voglia di ascoltare proprio l'originale dello stesso brano, un brano, uno dei più bei brani della musica di New Orleans. Big Chief, Professor Longhair. Allora, il brano che abbiamo ascoltato in precedenza era Big Chief di Professor Longhair, brano del 1964, che a buon diritto potrebbe essere considerato un inno di New Orleans. Quello che stiamo ascoltando adesso invece è Funkify Your Life, un augurio per tutti, dall'album New Direction del 1967, l'ultimo album dei Meters, registrato in California con la sezione fiati della Tower of Power. We'll be right back. battete i tamburi della tragedia per me. Battete i tamburi di tragedia e morte e lasciate che il coro intoni un canto tempestoso che affoghi il rantolo del mio respiro morente. Battete i tamburi della tragedia per me e i violini bianchi vibrino esili e lenti, ma dal sole risuoni una nota squillante di tromba che mi accompagni verso l'oscurità dove io vado. E allora la nostra Antonella ha letto questa bellissima poesia di Langston Hughes che noi usiamo per fare nel nostro piccolo una dedica e un omaggio a George Floyd, e ci sembrava che appunto queste parole fossero abbastanza adatte al contesto. E vorrei a questo punto segnalare anche il fatto che intorno alle 23 andava una trasmissione invece interamente dedicata a questa vicenda. Il titolo della trasmissione è Music and Politics e dovrebbe essere più o meno quello intorno alle 23. Eh sì, è un tributo doveroso a, ad un fatto, ad una persona che ci ha sconvolti. E detto questo, volendo continuare in questo omaggio, mandiamo un brano che con tutta la struttura della trasmissione, quella musica che avete sentito precedentemente, non c'entra nulla da una parte, ma appunto invece entra nella dedica che vogliamo fare a Floyd, ed è un brano che non avrebbe bisogno di presentazioni. Lo presentiamo comunque anche perché il titolo è illuminante. Il brano è di Marvin Gaye, dal suo disco forse più importante, la title track What's Going On. E con questo ci diciamo ciao, ciao da Ettore. Ciao da Ettore e Andrea. Face Zero. Alla prossima. Alla prossima, bella. Radio Forte. Ciao. Ciao. Ciao a tutte e tutti. Mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on? What's going on? Yeah, what's going on? What's going on? Yeah, what's going on? Tell me what's going on?